Savonarola, il frate che sagomò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che fu testimone di quella che viene definita seconda rivoluzione industriale e che aveva tra i suoi elementi cardine il carbone e l'allume, e lette da me, che sono testimone di quella che viene definita quarta rivoluzione industriale e che ha tra i suoi elementi cardine il carbonio e l'alluminio. D'altra parte, il carbone o scotta o stinge, e al lavoratore trascurato i sorci mangiano il seminato. Capitolo 21. Come Bettuccio Fiorentino. Il soggetto continuo delle prediche sopra Giobbe della Quaresima del 95 è sempre la riforma dei costumi, necessaria adesso più della riforma politica, la quale camminava oramai da sé. È ben vero che esse sono piene di visioni, di allegorie, di singolari interpretazioni della Bibbia. Una predica intera è sul lume profetico, in un'altra egli divide il mondo in due schiere, l'una dei cattivi capitanati dal diavolo, l'altra dei buoni capitanati da Gesù Cristo. Propone agli eletti di far lega con Cristo e si offre di andare ambasciatore a lui. Non di meno, il soggetto è sempre il medesimo, egli in fondo non raccomanda mai altro che il ben vivere e l'unione dei cittadini. Dopo questo quaresimale, il Savonarola sembrava affranto e vinto dalla fatica. Sebbene la sua energia si leggesse ancora nel vigore dello sguardo e nel fuoco degli occhi, egli era straordinariamente dimagrato, visibilmente esausto di forze, ed una malattia viscerale lo indeboliva ogni giorno di più. La vita degli ultimi anni era stata una battaglia troppo continuata, un esaltamento troppo maggiore di quello che ogni fibra di uomo possa sopportare. La lotta politica lo aveva abbattuto assai più di quello che egli medesimo non credeva. Non era stato solamente un riflettere, un ragionare, un consigliare continuo per dirigere quei rapidi mutamenti che di giorno in giorno avevano luogo, ma fu quasi un sostenere sopra di sé i destini e l'avvenire di tutto un popolo che si affidava ed abbandonava in lui. Quindi il bisogno di mantenere sempre vivo il suo predominio morale, quasi di animare l'intera moltitudine col suo animo, reggerla e sostenerla con la sua volontà, creava in lui uno stato di tensione, di esaltamento, di febbre continua. Le parole sono forse la parte minore di queste prediche. Egli discorreva un soggetto che gli stava più di ogni altro a cuore, e la sua debolezza fisica accresceva il suo morale esaltamento. I suoi occhi fiammeggiavano, il suo gesto era vibrato, il suo accento oltre il solito passionato e pietoso, e se un po' troppo si perdette nelle visioni, questo veniva facilmente perdonato al suo straordinario eccitamento. Era in lui tanta l'espressione di sincerità, di bontà e di benefico desiderio, che mai non si vide una così grande moltitudine essere così pienamente dominata dalla pietà, così facilmente dare impianti dirotti. E alla fine della quaresima il Savonarola aveva ottenuto un trionfo quasi maggiore di quel trionfo politico che gli avevano dato altre sue prediche. L'aspetto della città era tutto mutato. Le donne abbandonavano i loro ricchi ornamenti, vestivano semplici e andavano di messe. La scorretta gioventù era come per incanto divenuta modesta e religiosa. I canti carnascialeschi cedevano il luogo alle canzoni religiose. Nelle ore di riposo si vedevano gli artigiani seduti a bottega con in mano la Bibbia o le opere del frate. Si riprendevano le orazioni, si frequentavano le chiese, si facevano limosine. Ma quel che più di tutto riuscì mirabile fu il vedere banchieri e mercanti restituire, per scrupolo di coscienza, somme di denaro che montavano a più migliaia di fiorini male acquisiti. In tutto questo gli arrabbiati naturalmente non volevano vedere altro che argomento di ridicolo e andavano sempre più adirandosi e beffando il Savonarola e i suoi seguaci, che essi chiamavano piagnoni e stropiccioni e mastica paternostri. Ma questi piagnoni erano i soli che fortemente sostenevano i diritti del popolo, quelli che più volenterosi si videro correre alle armi quando aveva minacciato il pericolo dei francesi, quelli che erano più larghi del loro avere al comune, che più amorevolmente soccorrevano il minuto popolo oppresso ora dal caro dei viveri e dal poco lavoro. Essi amavano tanto più tenacemente la Repubblica, in quanto che la libertà era nel loro cuore unita alla religione, e nelle più gravi necessità dello Stato, solo su questi seguaci del frate, su questi piagnoni, appunto, la patria poteva sperare. E però l'entusiasmo in favore di San Marco e del Savonarola andava sempre a grandissimo dispetto degli arrabbiati, divenendo più universale. Dalla campagna e dalle ville si partivano di notte contadini e signori per trovarsi alla predica. Alcuni erano venuti fino da Bologna a starsi la quaresima in Firenze, e il Duomo stesso non bastava più a contenere la folla. Molti conventi chiedevano di nuovo unirsi a questa congregazione toscana, e il numero di coloro che vestivano l'abito di San Marco era moltiplicato in modo non credibile. Da 50 quanti erano nel principio i frati, arrivavano ora a 238, onde bisognò chiedere alla Repubblica la contigua fabbrica della Sapienza che, mediante un traforo di sotto alla via del Maglio, si congiunse al convento. Vi erano giovani delle prime famiglie di Firenze, come i sei fratelli Strozzi, alcuni dei Gondi, Salviati, Acciaiuoli. Vi entrarono uomini di matura età, reputati nelle lettere, nelle scienze e nel maneggio dei pubblici affari, come Pandolfo Rucellai, Giorgio Vespucci, zio del celebre navigatore, Zanobi Acciaioli, l'ebreo Blemmet, maestro di Pico della Mirandola, Pietro Paolo Urbino, professore di medicina e molti altri. Il modo poi in cui queste conversioni al chiostro avevano luogo merita di essere particolarmente considerato, perché si veda come il Savonarola, lungi dall'incoraggiare le subite risoluzioni e i troppo facili entusiasmi, andasse invece con una prudenza grandissima. Ce ne darà esempio la conversione che racconta di se stesso un tale Bettuccio Fiorentino, più noto a noi col nome di Fra Benedetto. Era figlio di un orafo ed esercitava l'arte allora assai profittevole della miniatura. Giovane nel fiore degli anni, d'indole allegra, pieno d'impeto e di coraggio, conosceva il canto, la musica e la poesia, amava il bel vivere e s'era perdutamente abbandonato ai piaceri. Così fu il benvenuto e benveduto delle liete brigate, fra le quali passava una vita spensierata e galante. Tale era la vita che faceva il miniatore Bettuccio quando incominciò a levarsi la fama del frate di San Marco e ognuno accorreva alle sue prediche. Bettuccio però fu assai lontano dal seguire la folla, parteggiava invece per gli arrabbiati e insieme con essi beffava i piagnoni. Pure, trovandosi una volta in casa d'una nobile e bella matrona, costei cominciò con calore a parlargli delle prediche del Savonarola ed egli ne rise molto, ma un altro giorno, vinto da quelle gentili insistenze, si lasciò menare al Duomo. Ci descrive la grande confusione che provò allora nell'entrare in chiesa e vedersi fra tanta moltitudine di devoti, i quali, pieni di maraviglia, lo guardavano. Avrebbe sul primo voluto partirsi, ma poi rimase, sebbene assai malcontento. Quando però il Savonarola scese sul Pergamo, la cosa mutò subito aspetto. Fissati una volta sopra di lui gli sguardi, non potette mai più rimuoverli. La sua attenzione fu prepotentemente dominata, l'impressione fu grandissima. E allora, così egli dice, conobbi finalmente esser più morto che vivo. Finita la predica se ne andò per luoghi solitari e per la prima volta mia mente addussi dentro di me stesso. Dopo una lunga meditazione tornò a casa ed era tutto mutato. Abbandonò le carte del canto e gli strumenti di musica, lasciò l'usata compagnia, gettò via gli abiti profumati. Da quel giorno fu dei più assidui alla predica, frequentava San Marco, recitava le orazioni e litanie. Dura, egli dice, fu la lotta che ebbi a sostenere contro i miei compagni, i quali per tutto mi andavano deridendo. Pure assai più dura fu quella che sostenni contro le mie stesse passioni, che d'ora in ora, sbrigliate di nuovo, m'assalivano fierissime. Finalmente, quando credette poter essere sicuro di sé, andò a inginocchiarsi ai piedi del severo priore di San Marco. La voce gli tremava, non poteva quasi proferire parola innanzi a quell'uomo che lo aveva rigenerato, pure disse che voleva vestir l'abito di quel convento. Il Savonarola gli parlò sul pericolo delle decisioni precipitose, sulla difficoltà della vita monastica e concluse consigliandolo a fare una migliore esperienza di sé col vivere cristianamente fuori del convento prima di varcarne la soglia. Non fu inutile il consiglio perché Bettuccio ebbe di nuovo a sperimentare la fiera lotta delle sue violente passioni, né sempre con felice successo. Pure, dopo fatta severa penitenza dei suoi nuovi trascorsi e quando si fu per lungo tempo sentito padrone di sé, ritornò più sereno al Savonarola. Ma questi, che mai non lo aveva perduto d'occhio, non volle ancora concedergli l'abito. Lo pose invece ad assistere i malati e a seppellire i morti. Di tanto in tanto era chiamato nella cella del frate, da cui riceveva consigli e udiva lezioni sulla vita monastica. Finalmente, il 7 novembre 1495 vestiva l'abito e il 13 dicembre pronunziava i voti solenni col nome di Fra Benedetto. In questo modo il Savonarola acquistò uno dei suoi più fedeli seguaci, uno di quelli che fecero miglior prova nell'ora del pericolo e che insino all'ultimo andò sempre crescendo nella sua ammirazione e quasi devozione per il maestro. Con la medesima prudenza consigliava tutti gli altri, né mai sollecitò alcuno a vestirsi frate. Il suo unico scopo era migliorare i costumi, diffondere la morale che sembrava morta negli animi, e a tal fine dedicava adesso più specialmente tutte le sue ore, tutte le sue forze, la sua volontà e l'anima intera. Quando egli predicava del buon costume e delle virtù cristiane, sembrava quasi che la sua anima rilucesse nei suoi occhi, che le potenze del suo spirito si effondessero con la sua voce sul popolo, il quale di giorno in giorno migliorava visibilmente sotto quella benefica forza. Tutto tutti gli scrittori contemporanei non cessano mai di esprimere la loro maraviglia per questo quasi miracolo. Alcuni sono edificati dal trionfo che allora ebbe la religione, altri deplorano i tempi delle allegre ballate e dei canti carnascialeschi, ma tutti insistono ugualmente sul mutato costume e sull'unico autore di ciò, frate Girolamo Savonarola.